Buonasera a tutti. Boni, che stavi sia al cammino. Tranquilli, tempo di uscire dal camerino. Eccolo, e namo, oh. È arrivato il maestro Gigi D'Agostino. Buongiorno, questa era la campanella e oggi è una bella giornatella. Io sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Yeah. Sabato 16 dicembre 2006. Gigi D'Agostino suona alla discoteca 24.000 baci. Discoteca 24.000 baci. Latina. Varia è la sorte, volubile e leggera. Quel che veste il mattino spoglia la sera. Apostolo Zeno. L'11 dicembre del 1668 nasce Apostolo Zeno, letterato italiano. Cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. Dai, maestro, attacca con sta banda, va. Paese. D'Agostino, una grande famiglia danzante. Cammino di Gigi D'Agostino, il tuo archidepresso. Rimani connesso. Potresti non avere una seconda chance per dare la prima impressione. Oscar Wilde. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il

Gesù d'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo. Gigino, sei proprio un bel fighino. Sì. Seguo il tuo cammino, mi fai venire la pelle d'oca. Manuela. Di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 333-64-67-662. Gigi D'Agostino. D'Agostino. Una musica infinita che racconta la vita. Ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire, mani che pensano, che vogliono dire che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. L'amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L'amore deve avere la forza di attingere la certezza in se stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà. Hermann Hesse. Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. We'll be right back. ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Sali in sella, è suonata la campanella. Sabato 16 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona Latina, discoteca a 24.000 baci. Frequenza è codesta e la musica pesta. Attraverso questo cammino, potete lanciare il vostro pensierino. 3, 3, 3, 6, 4, 6, 7, 6, 6, 2. Il cammino di Gigi D'Agostino, mi conosco lei. Questo programma musical mental, ole, me gusta mucho más. E che cacho? Musical mental. Musical mental. Musical mental. Gigi D'Agostino, un DJ con le palle. Put up.

se si escludono gli istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro, che purtroppo è un privilegio di pochi, costituisce la migliore approssimazione concreta della felicità sulla terra. Ma questa è una verità che non molti conoscono. Primo Levi. Dicembre del 1946 viene fondata l'UNICEF. Il cammino di Gigi D'Agostino è una grande famiglia. Che meraviglia. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Un raggio di sole è sufficiente per spezzare via molte ombre. San Francesco d'Assisi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. DJ D'Agostino un altro modo di fare musica. La prudenza e l'amore non sono fatti l'uno per l'altro. Man mano che cresce l'amore, la prudenza diminuisce. François de La Rochefoucauld. Sulle mani. È come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani, è come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani, per Gigi D'Agostino, aria. Per Gigi D'Agostino, sulle mani, per Gigi D'Agostino, aria. Per Gigi D'Agostino, sulle mani. Se un momento parte lento violento e vi ciao, sono l'inventore del lento violento e me ne vento. Fermamosi un momento. Scrivi il numerino 3 3 3 6. 64 67 662. Se riparte maestro col teatro e il burattino. Gigi D'Agostino. L'amore è sentirsi liberi anche quando si è legati a qualcuno. Sentirsi liberi da se stessi. E avere l'impressione di volare, perché c'è qualcuno che ci accetta per quello che siamo. Liz Lore Garrison. Il cammino di Gigi D'Agostino. La vita è più bella quando suona la campanella. Sanno per esperienza che è facile innamorarsi, mentre amare veramente è bello ma difficile. Hermann Hesse. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino.

67662. Ci sentiamo domani. Grazie.